Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, lavoro e benessere in Nord Europa. Sarà questo oggi il tema che farà da sfondo alla nostra puntata, puntata che ci porterà fino in Danimarca, uno dei paesi simbolo della flexicurity alla nordica. Lo faremo, come sempre, raccontandovi la storia di un giovane connazionale che ha scelto, in questo caso, il Nord Europa per cercare quelle opportunità professionali e di crescita che lui stesso, guardando all'Italia, definisce come nascoste. E poi, se siete all'estero, avete origini nell'area di Belluno, non perdetevi il nostro approfondimento sulla web radio Bellunesi nel mondo, nata da poco e dedicata proprio a voi. Giovani talenti. La frase della settimana purtroppo ce la consegna la cronaca e l'abbiamo estrapolata dall'ultima lettera lasciata da Michele, un trentenne di Udine che a fine gennaio si è tolto la vita, stanco di essere precario. A renderla pubblica è stata la famiglia. Ci ha colpito questo passaggio. Di no come risposta non si vive, di no si muore e non c'è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi in realtà non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito da un'epoca che si permette di accantonarmi invece di accogliermi come sarebbe suo dovere fare. Così Michele. Gli insegnanti italiani sono i più anziani d'Europa, questo è il trend confermato da Eurostat per il 2014, da cui emerge che la penisola è prima nell'Unione per maestri delle elementari over 50, come anche per docenti della secondaria sempre over 50. Nella scuola primaria più di un maestro su due ha superato i 50 anni, mentre alle medie e alle superiori si arriva addirittura al 58%. I docenti giovani lavorano soprattutto a Malta, in Gran Bretagna, Lussemburgo e Polonia. Ma come si vive e lavora nel celebratissimo Nord Europa? Tempo per noi di fare le valigie seguendo la stella polare. Quello che soprattutto apprezzo dell'ambiente lavorativo scandinavo è quell'idea di comunità, nel senso che si lavora di squadra e ci si fida gli uni degli altri. Simone Barbera, 36 anni, è technology planner in Danimarca. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Dal 2008 ad oggi la ricerca condotta nelle università italiane ha perso 1 miliardo di euro e 10.000 ricercatori. Lo ha denunciato il presidente della conferenza dei rettori Gaetano Manfredi. Lo ha intervistato Maria Piera Ceci. Se non facciamo inserire nel sistema dei giovani ricercatori, cercando di recuperare i 10.000 che abbiamo perso, l'università si invecchia troppo, muore, non ci sono nuove generazioni di scienziati che siano in grado di continuare e di avere quel talento, quella creatività di cui c'è bisogno. Giovani che poi rischiamo di regalare all'estero. E noi regaliamo tantissimi giovani all'estero, ogni anno migliaia di ricercatori vanno fuori perché non hanno opportunità in Italia, è come se noi avessimo, sono molto ricercati, è come se noi fossimo una squadra di calcio che alleva nelle giovanili i migliori talenti e poi li regala agli avversari con cui deve giocare, quindi diventa un paradosso. Ora un'ampia pagina sulla Brexit, record di ingressi di immigrati dai paesi europei in Gran Bretagna tra il luglio 2015 e il giugno 2016, 284.000 nel periodo che ha preceduto il referendum e, secondo il Guardian, oltre 100.000 cittadini europei hanno fatto richiesta dello status di residenti per evitare guai nel periodo che seguirà il divorzio tra Londra e Bruxelles. Il governo britannico non ha alcuna intenzione di buttare fuori la gente del paese. Questa è intanto la rassicurazione del ministro per la Brexit, David Davis, che ha voluto rassicurare coloro che chiedono garanzie per i cittadini europei già residenti, centinaia di migliaia, lo ricordiamo, gli italiani. Abbiamo il debito morale e legale di lasciare loro tutti i diritti che hanno, ha insistito Davis. Intanto l'effetto Brexit ha determinato un calo di iscrizioni pari al 5% nelle prestigiose università del Regno Unito, lo confermano i dati ufficiali aggiornati, a pesare l'aumento delle rette ma anche la contrazione, meno 7%, delle domande presentate dagli studenti di paesi europei, Italia compresa. E come se non bastasse, la Brexit ha fatto crollare anche l'emigrazione di infermiere europee oltre Manica. Da giugno le registrazioni per poter lavorare nel paese anglosassone nel settore infermieristico sono crollate di oltre il 90%. Medici italiani in Francia, come riporta il Corriere della Sera, sono sempre più ricercati, al punto che il sindaco della città di Turot ha avuto l'idea di importare medici dalla penisola per sopperire alla carenza di professionisti transalpini. A breve 7 connazionali si trasferiranno nella cittadina a nord-est di Parigi. Gli stipendi offerti oltre Alpe per la categoria variano tra i 5.000 e i 7.000 euro al mese. firmata tra il Consorzio Interuniversitario Alma Laurea e la Camera di Commercio Italiana in Cina, una convenzione per favorire i giovani laureati italiani in Estremo Oriente e i giovani laureati cinesi in Italia. Secondo Alma Laurea, il 10% dei laureati italiani nel 2015 ha svolto un'esperienza di studio all'estero, tra questi il 3% ha scelto proprio la Cina e, secondo i dati dell'Anagrafe Nazionale Studenti, nell'anno accademico 2014-15 gli stranieri che hanno scelto gli atenei italiani sono poco meno del 4%, 11.500, oltre 1.200 i cinesi. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul proprio sito il nuovo bando rivolto a giovani laureati italiani per ricoprire posti di lavoro come assistente di lingua all'estero. Le sedi sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna per l'anno scolastico 2017-18. La disponibilità è di 300 posti. Info sul sito MIUR, scadenza del bando 4 marzo. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Danimarca, rotta verso la Scandinavia per tornare a indagare come si lavora nel Nord Europa. Nome: Simone. Cognome: Barbera. Età: 36. Città di origine: Messina. Studi: laurea in ingegneria elettronica e dottorato in telecomunicazioni. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Danimarca. Perché? Per provare il famoso modello scandinavo. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono ingegnere presso l'operatore telefonico Telenor. Dove? Aalborg. Tornerai? Prima o poi sì. I danesi di Acqua, Barbie Girl, per introdurre la storia danese di Simone Barbera. In Danimarca ho scoperto una nazione dove si lavora bene, in un ambiente sano, produttivo, interessante, internazionale, non stressante, efficiente, dove la fiducia è tale che non serve timbrare l'ingresso o portare certificati medici, ma si lavora in maniera flessibile, ognuno ha precise responsabilità. Simone, così descrivevi qualche mese fa Giovani Talenti @radio24.it l'ambiente di lavoro che hai trovato al nord. Esiste davvero allora questo paradiso lavorativo nordico così decantato ed è soprattutto un modello esportabile in Italia? Confermo la descrizione che ho fatto della Danimarca. Quello che soprattutto apprezzo dell'ambiente lavorativo scandinavo è quell'idea di comunità, nel senso che si lavora di squadra e ci si fida gli uni degli altri. Quindi è esportabile? Poi, ecco, con queste premesse è esportabile? Con queste premesse è gradualmente esportabile. Nel senso che andrebbe cambiata un attimo la mentalità, a volte la cultura, diciamo, del modo di lavorare italiano, però è qualcosa verso cui si dovrebbe andare. Siciliano di Messina, resti nella tua splendida isola fino a 25 anni, avevi studiato sempre a Messina ingegneria elettronica, che passione ti ha portato su questa strada? Si tratta di una passione che fondamentalmente mi ha trasmesso mio padre. È un'altra passione soprattutto per la tecnologia, per l'innovazione, anche insomma la curiosità di conoscere cose nuove. Sinceramente è qualcosa di cui non mi sono mai pentito. A posteriori rifaresti l'università in Italia? Che voto dai alla formazione ricevuta qui? Considero l'università italiana un buon trampolino di lancio per le basi teoriche che fornisce, però l'esperienza all'estero è qualcosa che consiglio sempre, perché oltre ad aprire la mente aggiunge soprattutto la parte pratica. Allora, dopo la laurea ti trasferisci all'Aquila, domanda secca, per fare cosa? Ho lavorato per un anno presso una piccola azienda di sistemi satellitari, Elital SRL, come ingegnere elettronico. E come ricordi l'ambiente di lavoro italiano, soprattutto se paragonato con quello che hai poi trovato in Danimarca? La mia esperienza in Italia, se la vedo dal punto di vista delle persone con cui ho lavorato, è stata davvero positiva. Però devo dire che ho sofferto i problemi strutturali dell'Italia, diciamo in termini generali di qualità della vita. Sempre nel centro Italia hai deciso di specializzarti ulteriormente con un dottorato in ingegneria delle telecomunicazioni Roma Tor Vergata. Ne è valsa la pena? Ti ha fornito quelle capacità in più necessarie a spiccare il salto? Il gruppo con cui ho lavorato era un bel gruppo ed era anche molto internazionale e competente, e questo chiaramente ha aiutato. Direi che ho imparato molto da quel periodo. Da Roma come passi in Danimarca? Come ti si aprono? Ti si spalancano le porte del Nord Europa? Proprio in quanto il gruppo con cui lavoravo era abbastanza internazionale, uno dei contatti era l'università di Aalborg in Danimarca, cioè la città dove vivo ora, e quindi ho chiesto di finire lì la mia tesi di dottorato. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. In Danimarca arrivi dunque in primis per chiudere il dottorato. Poi però trovi anche lavoro. Come, dove? Sempre lì ad Aalborg. Nel giro di un anno, mentre scrivevo la tesi, ho avuto modo di conoscere un professore che, oltre a essere professore dell'università, era anche un dipendente della Nokia. Abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata informale, ho proposto insomma le mie referenze e nel giro di poco mi ha offerto un contratto da consulente Nokia e al tempo stesso come postdoc all'università. Infatti la cosa più interessante è che non solo lavoravi per Nokia ma anche in università. Quanto nel nord Europa, qui la cosa è molto importante, università e impresa vivono in simbiosi? Vivono assolutamente in simbiosi. Basta pensare che ad esempio l'università e la Nokia fanno nello stesso polo scientifico, ci si muove da un ufficio all'altro, si lavora insieme e quello che è noto è che da una parte l'università, occupandosi della parte più teorica, si occupa della parte più teorica ovviamente, ma ne vede l'utilizzo pratico, poiché quella stessa ricerca viene riutilizzata da un'azienda e l'azienda riesce sempre ad essere innovativa. Cosa che in Italia, almeno questa simbiosi, non c'è. C'è la parte in cui ho studiato in Sicilia, in cui ho avuto l'impressione che ci fosse un distacco netto con il mondo industriale. Muovendomi verso Roma ho visto più cooperazione, ma comunque siamo lontani da quello che ho visto in Danimarca. Per chiudere la storia, il tuo percorso di lavoro ti ha poi portato altrove, dove, di cosa ti occupi? Adesso lavoro presso l'operatore Telenor e mi occupo di implementazione per quanto riguarda la rete 4G e di ricerca e sviluppo per quanto riguarda la futura rete 5G. Anche per dirlo a chi potrebbe essere interessato, il mercato del lavoro scandinavo è dinamico pur nella crisi che ha attraversato l'Europa. Ha continuato e continua a offrire opportunità di impiego interessanti? La crisi si sente anche in Danimarca, ci sono delle differenze rispetto al periodo pre-crisi, però devo dire che il mercato del lavoro mantiene la sua dinamicità e tutto il sistema mantiene la sua dinamicità. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. L'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Alto record del mondo! Garozzo, eccelle! La stoccata, la conferma, la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Simone Barbera, 36enne technology planner in Danimarca. Nel nord Europa Simone arriva grazie a un dottorato, dopodiché vi sviluppa rapidamente la sua carriera lavorativa. In Danimarca Simone osserva e apprezza un ambiente di lavoro sano, basato sulla fiducia, il che incrementa notevolmente anche la qualità della vita. In Italia vede interessanti potenzialità nell'ottica di un possibile ritorno, ma non così chiare e delineate come avviene negli altri paesi. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Il paradosso è che i tuoi colloqui di lavoro con l'Italia post 2010 ti hanno restituito un feedback un po' spiazzante. Venivi percepito o come troppo accademico o come troppo industriale. Manca, ti chiedo, un po' di flessibilità qui in Italia nel valutare i curricula internazionali come il tuo? Ovviamente in questo parlo per la mia esperienza, però sì, ho notato che c'è un po' la tendenza a dire che la mia esperienza è o troppo accademica o troppo industriale o troppo troppa esperienza in qualcosa o troppo poca in qualcos'altro. È come se ci fossero delle categorie per i curriculum nelle quali non si, per il curriculum nelle quali non si inquadra il mio. Se si esce, chiaramente diventi un oggetto non identificato, potremmo dire. Esatto, è un po' quello. Eppure tu un ritorno qui non lo escludi. Anche in Italia esistono eccellenze nel mio campo, annoti. Eppure hai l'impressione che molte possibili posizioni siano nascoste, non visibili. Allora spiegaci meglio. Nel corso di questo periodo in Danimarca ho avuto modo di conoscere delle aziende e delle persone che lavorano appunto in Italia, delle eccellenze quindi nel mio campo, e la cosa curiosa è che non avevo idea di queste aziende e di queste persone mentre vivevo in Italia. L'impressione che ne ho in questo senso è che mandare il classico curriculum via internet o cercare lavoro con i canali classici non sia esattamente ciò che andrebbe fatto per quanto riguarda il trovare un lavoro in Italia. L'idea che mi sono fatto è che in Italia qualcosa c'è, però va trovata tramite connessioni professionali. E allora, per chiudere, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Non so quanto possa essere concreta, però quello che posso dire è che il vero difetto dell'Italia, sempre secondo la mia opinione, è che dovremmo essere un po' più comunità, un po' meno individualisti, e secondo me poi tutto il resto verrebbe da sé. Ci raggiunge ora in linea Laura Di Raimondo, direttrice di Asso Telecomunicazioni Aste, l'associazione di categoria delle imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Che impressione le ha fatto ascoltare la storia di Simone Barbera? È possibile che un curriculum di caratura internazionale come il suo non sia inquadrabile dalle nostre aziende, o troppo accademico o troppo industriale? Allora, certamente il curriculum di Simone è di grandissimo interesse anche per il nostro settore. C'è tuttavia da dire che l'Italia sta venendo fuori faticosamente da una profonda crisi che ha attraversato gli ultimi anni, quindi sicuramente un periodo complicato e complesso. Penso che giovani come Simone possano nutrire maggiori speranze oggi come oggi. Infatti il settore delle telecomunicazioni, io parlo trasversalmente un po' di tutta la filiera che rappresentiamo, si è sempre caratterizzato anche in questi anni di crisi per una forte politica degli investimenti, e anche in questo periodo di crisi l'occupazione nel settore ha tenuto, e ecco, questa è una caratteristica molto specifica. A proposito di occupazione, una vostra recente indagine ha messo nero su bianco come l'età anagrafica dei dipendenti stia aumentando, più del 60%, e over 40 un balzo del più 11% in 6 anni, mentre gli under 30 appaiono un po' una riserva indiana, solo il 6%. Com'è possibile, le chiedo, che i giovani non trovino posto in un settore che avrebbe un enorme bisogno della loro capacità innovativa? Allora, questo non è un tema soltanto delle telecomunicazioni, questo è un tema sicuramente di tutto il paese italiano. Come detto, cioè, il paese ha attraversato grosse difficoltà, e anche i cambi, no, legislativi, l'allungamento dell'età pensionistica hanno portato a un rallentamento del turnover, quindi sicuramente c'è un basso livello di turnover che deve essere ripreso, e per esercitare il ruolo di abilitatori del processo della trasformazione digitale del paese, pensiamo solo al piano Industria 4.0, oggi il paese ha fatto una scelta industriale strategica di visione, non possiamo che andare verso le nuove generazioni. Questo è un settore che avrà bisogno di nuovi inserimenti, di nuove esperienze. Le faccio una domanda molto diretta: un giovane ingegnere delle telecomunicazioni cosa consiglierebbe in tutta onestà, restare qui o guardare all'estero? Allora, sicuramente il fatto di aver fatto un'esperienza all'estero è un valore, io questo lo posso dire assolutamente, perché oggi i giovani non devono rimanere fermi, no? Il fatto di avere esperienze anche trasversali, no? Che attraversano più mondi, sia a livello di esperienze in termini di aziende, ma anche in termini di esperienze paese, secondo me è un valore, no? Perché porta la possibilità di rientrare con una conoscenza e con delle capacità nuove. C'è un punto importante in quello che Simone ha detto, riguarda le posizioni di lavoro esistenti, ma lui dice non così ben pubblicizzate e contendibili. Ha anche lei questa impressione? Oggi l'Italia, io parlo in termini assoluti, poi sicuramente il nostro settore su questo ha abbracciato la sfida, l'ha detto bene Simone, di abbracciare la sfida anche delle politiche attive, e quindi questo porta dietro il tema dell'alternanza scuola-lavoro, l'interconnessione con le università. Però lui parla proprio di quali posizioni sono aperte. Oggi le posizioni aperte cambiano. Quello che deve capire Simone è che non solo ci sono posizioni più nascoste, perché magari non è il marchio solo dell'azienda nota, no? Quindi la diffusione del curriculum, ma ci sono aziende di nicchia. Oggi ad esempio le start-up sono uno dei punti nevralgici anche del futuro, no? C'è un grande fermento sulle start-up, e sicuramente i giovani devono prendere coscienza che l'approccio proprio al lavoro cambia perché cambiano le posizioni lavorative. Grazie a Laura Di Raimondo, direttrice di Aste. Le domande diritto per Simone Barbera: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Il consiglio di provare l'esperienza all'estero è qualcosa che io do a tutti, assolutamente. Si acquisisce un certo bagaglio di esperienze, si apre la mente. A quel punto si può decidere più liberamente se conviene o meno tornare in Italia, ma intanto l'esperienza andrebbe fatta. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Quantitative Credit Risk Manager per la Council of Europe Development Bank a Parigi, Francia. Scadenza per i CV dopodomani. Info su ceb.profils.org. Una manager per il dipartimento meccanico a WSP a Bucarest, Romania. Richiesta la laurea in ingegneria. Scadenza per i CV 1 aprile. Info su wsp-pb.com. E infine un postdoc in neurobiologia cellulare al Center for Genomic Regulation di Barcellona, Spagna. Scadenza per i CV dopodomani. Info su recruitment.crg.eu. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi parliamo di una web radio, una delle tante, che stanno cominciando ad affollare il mondo internet e che sono dedicate ai nostri espatriati. In alcuni casi vengono fondate all'estero, in altri invece, come vi raccontiamo nei prossimi minuti, sono create in Italia per rivolgersi alla platea di emigrati. È il caso della web radio dell'associazione Bellunesi nel mondo. Marco Crepaz, direttore dell'associazione. L'idea è nata perché vogliamo essere sempre più online ed essere 24 ore su 24 attivi verso tutti i nostri emigranti che sono in giro per il mondo. Da 50 anni abbiamo una rivista che viene inviata ai nostri soci. Sai benissimo che i tempi di spedizione e quant'altro sono lunghi. Abbiamo pensato che in questo modo, invece, in qualsiasi momento, da tutto il mondo possiamo mandare informazioni che riguardano i nostri emigranti, ma nello stesso tempo vogliamo dare voce a loro per le persone che invece si trovano in questo caso in provincia di Belluno, ma comunque in tutta Italia. Di cosa parlate? Di cosa parlerete anche ora che la radio, insomma, è partita all'interno di questa radio web? Ma guarda, allora, innanzitutto si partirà al mattino con il palinsesto dedicato alla rassegna stampa, quindi informazioni che riguardano la provincia di Belluno. E anche, faccio una parentesi, il motto di Radio ABM è proprio voce delle Dolomiti, quindi daremo proprio spazio alla realtà della provincia di Belluno, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, quindi tutti i nostri ascoltatori potranno sapere che cosa avviene appunto nel territorio da dove sono partiti. Nello stesso modo però faremo delle interviste ai vari sindaci con delle tematiche che riguardano, per esempio, i nostri emigranti iscritti all'AIRE, quindi sai benissimo che ci sono delle persone che hanno delle case di proprietà, potranno porre tutte le domande del caso. Si parlerà, immagino, anche molto di giovani all'estero, che poi sono il target della nostra trasmissione. Qui, ecco, come intendete parlarne? Guarda, daremo proprio voce, nel senso che ci collegheremo noi come Associazione Bellunese nel Mondo, abbiamo anche un social network che si chiama bellunoradici.net, allo stato attuale ha superato gli 800 iscritti, quindi queste 800 persone avranno la possibilità di parlare di se stessi, di dare informazioni, ma anche di lanciare diretti messaggi a chi appunto questi messaggi li devono ascoltare. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.bellunesinelmondo.it o potete cercare sugli store Android ed Apple l'app Radio ABM. Un motivo per restare o tornare. Oggi vi parliamo di un progetto Gatebridge che punta a creare un ponte tra giovani e mercato del lavoro. Elaborato dalla Fondazione Pardis, favorisce l'inserimento di giovani laureati e diplomati tra i 18 e 30 anni in imprese del territorio lombardo, svolgendo un ruolo di mediazione tra le parti coinvolte e finanziando in toto l'inserimento delle risorse in azienda. Per informazioni e candidarsi, fondazionepardis.org. Candidature aperte fino al 30 aprile, 11 le posizioni disponibili, in particolare ingegneri ed esperti web. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo allora le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it.